ci sono tante corde, vengono toccate tante corde, dal dolore alla sofferenza, al lato oscuro appunto della personalità umana. Però insomma, ecco, forse l'ironia è la cifra che sembra definirti di più, e così è la lente attraverso cui guardi il mondo anche nella tua vita quotidiana, oltre che nella scrittura. Sì, credo che in qualche modo il senso dell'umorismo mi appartenga anche nella vita. Ma come hai detto tu, quando si pensa a Stefano Benni si pensa alla parola comico, se uno non ha voglia di studiarlo, insomma, se vuol dare una definizione un po' superficiale. A me non dispiace la parola comico, però non sono un comico puro. Quindi nella vita mi aiuta molto il senso dell'umorismo, ma non mi impedisce a volte di essere molto triste, perché il senso dell'umorismo molto spesso è legato a una concezione molto malinconica della vita, perché appunto il comico è uno attento al mondo, allora se tieni aperti gli occhi sul mondo non puoi vedere soltanto le cose belle, vedi anche le cose brutte, ecco. Questo i lettori l'hanno capito, una certa accademia non lo capisce, allora è più comodo fare ancora la distinzione tra comico, tragico, che non ha assolutamente senso, si tratta di letteratura e quindi tutte le volte devi essere pronto a delle definizioni molto complesse, a non fare delle scatole semplici. Tu più che comico di battuta, secondo me sei uno scrittore appunto che ha come cifra stilistica l'ironia. Vabbè, sono famosissimi anche i tuoi aforismi, le tue scritte, eccetera. È curioso pensare che sei appunto uno di quelli che scrive aforismi o scrive delle frasi lapidarie che tutti poi magari ripetono, e invece non sei un appassionato di social media. Insomma, le tue frasi andrebbero benissimo su Facebook, diciamo la verità, sarebbero uno stato di Facebook perenne, eppure invece hai insomma una certa avversione verso queste nuove tecnologie. No, non avversione, però diciamo che io ho cominciato a fare aforismi, insomma, poi sono battute, prima che esistesse il web, quindi preferisco metterli in un libro piuttosto. Io non ho avversione per il web, però c'è una cosa che mi dà molto fastidio nel web, che è la fretta nel creare una polemica, l'allucinazione, il rispondere subito o con l'insulto o anche con un complimento, no, questo non mi piace. E comunque secondo me avevo fatto dei passi avanti sul web, nel senso che prima ero troppo sospettoso, poi mi sono un pochettino rilassato e negli ultimi 2 o 3 anni no, ricomincio a avvertire un certo fastidio su certe forme dell'isteria della fretta, la superficialità, insomma credo che il web debba in qualche modo debba succedere qualcosa, una specie di riflessione anche su quanta intelligenza è necessaria a scrivere sul web. Secondo me è necessaria ancora l'intelligenza. Speriamo che il web faccia questa riflessione e allora io ne vedo la grande utilità. Se non la fa, finirà un po' come la televisione, cioè a non dare molta importanza all'intelligenza che lo usa. E invece il web potrebbe essere un mezzo straordinario. Però insomma, che la gente ci pensi anche un'ora prima anche di twittare. E il tweet magari viene meglio, viene più intelligente, invece c'è una specie di isteria di dire subito, ti devo rispondere subito, e quando una persona mi risponde subito quasi mai mi risponde, non mi risponde in realtà. E la politica via Twitter, ne pensi il peggio possibile, immagino? Sì, io penso particolarmente un politico dovrebbe pensarci tanto prima di, ma siccome la politica è ormai un linguaggio di slogan e la politica non ha bisogno dell'intelligenza della gente, ha bisogno di una specie di suscitare una reazione abbastanza isterica, senza capire che così poi crepa la politica. Sì, ma anche tutto questo modo, ad esempio il selfie, a me un po', qualche volta vengo catturato dentro un selfie, però mi terrorizza, difendo molto la mia privacy, però non è che, insomma, ogni tanto anch'io faccio qualche boiata, però ci deve essere un perché. So di 2 o 3 personaggi che qualsiasi cosa fanno, cioè si rompono un braccio e mettono i selfie, si lasciano con la moglie e dicono a tutti. Questo mi sembra veramente, non è un modo di essere sinceri, è una pura esibizione, perché noi non sappiamo veramente quale sofferenza, quale gioia, quale tipo di cos'è veramente successo. No, questo veramente non mi interessa. Sappiamo bene che Stefano Benni non ama molto le interviste, soprattutto quelle televisive, ora non so quelle radiofoniche. Tu ti fai conoscere attraverso i libri, attraverso quello che scrivi. Cos'è che non ti piace nel momento in cui racconti di te, per esempio, in un'intervista come questa? Allora, la radio e la televisione sono diverse, ma in realtà poi io di interviste ne ho date tante. Le do per quasi sempre per mail. Quello che mi dà fastidio è la fretta, cioè il fatto che per spiegare un libro dove io ho impiegato 3 anni per scrivere questo libro, l'idea che poi in 10 minuti devo parlare di tutto a me terrorizza. Io non vorrei sprecare le parole, poi qualche volta le spreco anch'io, quindi ho una certa cautela, preferisco parlare per mail eccetera. La radio già dà più tempo, la televisione ne dà pochissimo, quindi io cerco di andarci il meno possibile. Ecco, la mancanza di precisione e la fretta delle interviste televisive, dei dibattiti, delle cose, mi fa paura. Ad esempio, non faccio dibattiti, ma non perché sento di avere qualcosa in più che non devo mettere rispetto agli altri, per carità. Perché mi sono trovato in alcuni dibattiti e l'ho scritto in una cosa, non è che perché si è in quattro succedono delle cose 4 volte più intelligenti o si dicono cose 4. Quando si è in 4 basta che uno parta per la tangente e si finisce a parlare di Castori o di autori che io non conosco e che dovrei conoscere. Quindi li evito con cura, a meno che non sappia bene che le persone con cui li faccio sono persone con cui ho voglia di parlare. Questa mania di mettere sommatoria, di mettere insieme 5-6 persone su un argomento, è un modo per non affrontarlo l'argomento, perché basta che uno o due si mettono a litigare e basta, alla fine non c'è più informazione, c'è meno informazione. Questo lo combatto grandemente, è una forma di non rispetto di chi ti guarda. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena, l'appuntamento è domani alla stessa ora.